Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. A guida autonoma, elettrico, con poltrone girevoli, scrivanie digitali e con la possibilità di fare sport o parlare con i propri familiari. È questo il camion del futuro. O almeno lo è nei progetti di alcune case di costruzione e di aziende di design. A pensarci ora potrebbe sembrarci forse troppo avveniristico, ma i bozzetti ci sono già e le tecnologie pure. Entro il 2030, ad esempio, si prevede che sulle nostre strade circoleranno tir a guida automatizzata. Il truck platooning è ormai realtà, mentre il primo mezzo alimentato da batteria a idrogeno dovrebbe essere in commercio fra meno di 3 anni. Ma c'è chi è andato ben oltre questo e ha pensato a camion con cabine per la realtà virtuale, in cui il ruolo dell'autista sarà completamente diverso. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ultimo appuntamento dell'anno anche per noi e, come è tradizione in questi casi, abbiamo deciso di parlare di futuro. E lo vogliamo fare con un ospite che in realtà il futuro lo vede tutti i giorni, perché di professione fa il designer e quindi deve in qualche modo anticipare tendenze e soluzioni tecnologiche. Saluto quindi Mike Robinson, CEO e Design Director di Eddy Design e con un passato anche in alcuni dei più importanti studi italiani, da Bertone a Lancia a Fiat. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti quanti, fa sempre piacere esserci qua con voi. Raccontiamo un po' ai nostri radioascoltatori che cosa vedranno sulle strade nei prossimi anni. Io qualche tempo fa ho avuto modo di vedere alcuni dei bozzetti da lei disegnati per il nuovo veicolo industriale, quello del futuro tra virgolette, perché in realtà è un futuro davvero vicinissimo. Quali saranno le caratteristiche dei veicoli commerciali che vedremo sulle strade nei prossimi anni? Ma la primissima cosa che stanno cambiando drasticamente tutto il mondo è l'ecologia. Incominciamo a vedere che il mondo sta passando dal mondo di ICE, internal combustion engine, cioè motore a scoppio, a motore che non inquinano, con zero impatto ambientale. Allora questo non è solo elettrico, c'è anche idrogeno, ci sono tante altre soluzioni, ma la cosa importante è smettere di maltrattare la nostra povera terra, atmosfera e quant'altro. Allora, quando parliamo di una vettura elettrica, significa avere un pacco di batterie e un certo tipologia di autonomia prima di dover fermarsi e ricaricare le batterie. Ovviamente un camion, un tir o qualcosa che ha molto più spazio per batterie che non un automobilino, quindi potremmo davvero fare dei tir elettriche che potrebbero fare questo servizio qua. E credo che qualcuno ci abbia pensato, perché proprio quest'anno, proprio il 2017, ha visto il lancio negli Stati Uniti, sua terra d'origine, come abbiamo immaginato, del primo veicolo elettrico pesante, cosa che fino ad oggi non esisteva. Prego. Certo, Elon Musk che ha tirato fuori una proposta per un tir elettrico e questo ha già avuto un sacco di ordini, un sacco di interessante, certo, interessamento. Ma la cosa importante è che chiedere ai nostri ascoltatori che magari guidano queste bellissime bestie se sarebbero capaci di andare da Napoli a Danimarca con questa vettura qua, questa camion elettrica. E la risposta è boh. C'è bisogno quindi di una grande colonnina di ricarica. Sì. Non solo per riuscire a tirare avanti grandi pesi, grandi cariche, eccetera, ma anche fermarsi il meno possibile durante questo cammino. E questo è il grosso dubbio sull'infrastruttura. E il prima, quanto dove trovo il posto per collegarmi, quanto tempo ci metto a caricare la batteria e soprattutto se questo mi permette di proseguire con il mio viaggio tranquillamente. Certo. Ecco Mike, questa evoluzione tecnologica, quindi questo passaggio dal motore tradizionale elettrico, come si riflette sul lavoro del designer? Ma innanzitutto il motore elettrico è molto più piccolo del motore a combustione, quindi possiamo mettere nel baule, possiamo fare un design molto diverso e invece aveva soltanto spazio per batterie, ma stanno giù in fondo al telaio e quindi possono nascondersi tranquillamente. Quindi la forma esterna potrebbe tranquillamente cambiare molto molto drasticamente per creare un nuovo look, non avendo il motore che invade lo spazio dell'abitacolo, o come Stati Uniti invade lo spazio nel musone che mettono gli americani su questi camion. Certo. Vedremo più i classici musoni americani, che sono questi tir appunto con la parte anteriore un po' prolungata proprio per ospitare questi motori potentissimi. Mike, un'altra cosa che cambierà sicuramente saranno le cabine. In che modo? Ma le cabine diventano sempre più salotti, no? Sempre più cose. Come hai fatto il Jet Track insieme all'amico David Wilkie di Iveco per questo concept car del futuro, creando un vero e proprio salotto che passa da giorno a giorno, giorno a notte, in pochi movimenti con alcuni apparecchi all'interno, diventa un salotto molto molto simile a quelli che abbiamo in casa nostra. Sempre di più la cabina dovrà assomigliare più a un salottino, non un veicolo con il cruscotto, volante e quest'altro. E questo ci porta al terzo argomento, che è quello del veicolo autonomo, che sarà la più grande trasformazione che abbiamo nella nostra vita. Vedremo questo realizzato di sicuro tra pochissimo, sia per l'automobile, sia per i tir, ma anche per tutti i veicoli che viaggiano per strada, pullman, moto, qualsiasi cosa. Deve cominciare a vedere sparire i volanti. E questo porta tutta una serie di riflessioni per quanto riguarda il design, la sicurezza, l'assicurazione, la legislazione e tutta una serie di cose che... Certo, che modificheranno completamente l'aspetto anche di questi veicoli. E quindi come si controlleranno questi veicoli? Ovviamente ci sarà un computer che probabilmente penserà ai lunghi tratti, ma ci sarà bisogno comunque della guida umana per quanto riguarda i piccoli spostamenti. E tu nel tuo prototipo hai immaginato anche una guida che coinvolga in qualche modo tutto il corpo dell'autista. Sì, ma la cosa interessante è che ci sono diversi livelli, sono diventati 6 livelli secondo SIA, con 0 addirittura con niente, e il livello 5 che non ha proprio volante, non ha volante, non ha pedale, non ha niente. Metti dentro e c'è un assolutino, una palestra o qualunque cosa, ma non una sola di cabine con posto guida, con volante, pedale e plancia. Allora, questo livello 5 significa che io salgo in camion e dico al mio camion, cioè, io vorrei andare a Orbassano. E questo dico, ma Orbassano, quello di Piemonte? Sì, certo, ovviamente. E quale indirizzo? Mi chiede il computer. Vedi lì vicino al stadio dei Juventus. Ah, benissimo, allora ti trovo quel posto, io dove è questo posto, ti spiego dove andare. Quindi diventa un compagno di viaggio. Questa voce che avremo, l'avremo visto in film di fantascienza come 2001, che si chiamava HAL. Certo, HAL, come no, lo ricordiamo tutti. Sì, lei che era questa ragazza molto, molto sensuale, la Samantha, che era Johansson, che riusciva a conquistare una persona con sua voce senza felicità. Quindi è una voce che accompagna l'autista, ex autista del tir, adesso che sarà un coordinatore, che viaggia con la merce, che è sicuro che non capita nulla a questa merce, e gli aiuta a fare gli affari all'inizio e alla fine di ogni viaggio, ma comunque sarà lì dentro per seguire la cosa e potrà chiacchierare con questa voce, questa intelligenza artificiale, che io chiamo Ambrogio, perché Ambrogio è il mio mito dal famoso Ferrero Rocher. E questo comunque diventa per noi un assistente personale virtuale. Ecco, però tutto questo, Mike, apre anche degli scenari abbastanza inquietanti. Tu hai citato per esempio Stanley Kubrick e il famoso HAL. Ecco, però c'è anche il rischio che le macchine a volte non funzionino come noi vorremmo. E quindi che cosa succede? Ma ovviamente, che passi da situazione nota a situazione ignoto, ci sono mille possibilità che possono andare a esplodere, no? Dalla utopia a disutopia e così via, no? E ci sono quelli che dicono sarà il mondo perfetto e gli altri dicono il mondo sarà disastroso, e tra queste due cose cerco di tenere sempre un piede in una cosa di positivo, bicchiere mezzo pieno, l'altro piede in cosa negativa, bicchiere mezzo vuoto, cercando di pro e contro di ciascuno. E questo bilanciamento per chi progetta questi sistemi qua, questo l'equilibrio è la cosa più importante per essere sicuro che non ci siano delle cose strane che possono nuocere tante certo. Tutte le vite delle persone, ma anche alla qualità di vita delle persone soprattutto. È un viaggio che noi intraprenderemo e che arriverà alla sua naturale destinazione da qui a qualche anno, ma è un viaggio che sicuramente è già cominciato, tant'è vero che dei prototipi del famoso livello 5 di automazione di cui parlava lei sono già in circolazione in alcuni stati del mondo, in particolare negli Stati Uniti. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Mike Robinson, grazie per essere stato con noi Mike. L'appuntamento con Container ritorna il prossimo anno, non sabato 6 ma sabato 13 gennaio. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.